America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Thank you, Mr. Chairman, Ranking Member, members. I'm pleased to present the Federal Reserve's semi-annual monetary policy report. I'm going to begin with a short summary of current economic conditions and then discuss aspects of monetary and fiscal policy. Ben Bernanke, il numero due del Consiglio di Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca, ci ha dato un quadro ieri del G7. Qualche giorno che parliamo di G7, adesso abbiamo anche la posizione americana. Avete sentito i temi sul tappeto sono di varia natura, perché non c'è soltanto l'economia, ma c'è anche il terrorismo, ci sono temi politici, c'è l'ambiente. Ecco, io però vorrei focalizzarmi soprattutto sull'economia. Ci sono di fondo due modelli diversi, perché non è soltanto crescita, è anche flessibilità e anche una predisposizione al mercato. Ecco, secondo me questo è un tema importante di cui si dovrà discutere al G7. Ho con me i microfoni di America 24 Carlo Cottarelli, direttore esecutivo al Fondo Monetario Internazionale, al quale giro la domanda. Buongiorno Cottarelli, come sta? Buongiorno, bene, grazie. Allora, due modelli diversi. Lei, dall'osservatorio del Fondo Monetario Internazionale che guarda al mondo, non ritiene che forse la Germania, perché qui è la Germania che ha imposto questa politica, sia stata un po' miope nel chiedere solo austerità e nel non seguire la linea americana, che era preferiamo l'inflazione piuttosto della recessione, e la Germania è ancora ossessionata da inflazione quando eravamo in deflazione? Non c'è stato un errore? Ma insomma, c'è stata di recente la missione del Fondo Monetario in Germania che ha appunto raccomandato alla Germania di avere una politica fiscale più espansiva, in particolare di aumentare gli investimenti. Quindi effettivamente il problema esiste di queste due visioni della politica fiscale. Io non credo che il fatto che l'economia americana si sia ripresa più rapidamente sia dovuta soltanto alla politica fiscale, perché comunque ci sono fattori strutturali per cui l'economia americana è più flessibile. Però resta il fatto che il deficit americano è stato tenuto su livelli molto più elevati per un periodo di tempo e continua a essere più elevato attualmente che in Europa, che il deficit tedesco o addirittura che il deficit medio dell'Europa. Quindi un problema c'è, si tratta di due visioni al mondo. Gli Stati Uniti hanno il vantaggio che loro hanno il dollaro, che è una valuta di riserva, è la valuta di riserva principale, e quindi possono prendere a prestito a tassi molto bassi, però anche i tedeschi adesso prendono a prestito a tassi molto bassi. Anche la Grecia adesso prende prestito a tassi relativamente bassi. Ecco, come reagisce il Fondo Monetario a questa, diciamo, promessa della Grecia di non pagare adesso, ma poi di, fra virgolette, legalmente pagare tutto in bundle, cioè tutta la cifra tutta insieme più avanti? Ma questa è una possibilità che viene lasciata ai membri, è stata una possibilità che è stata introdotta negli anni 70, che consente a un paese di fare un unico pagamento dei vari pagamenti che dovrebbero essere fatti in un mese. Quindi la Grecia non ha neanche dovuto richiedere questa cosa, ha semplicemente comunicato al Fondo Monetario che sulla base delle regole esistenti intende usufruire di questa possibilità. Quindi il pagamento sarà effettuato, tutti i pagamenti relativi al mese di giugno saranno effettuati il 30 giugno. Ecco, qualche altro commento può darcelo sulla Grecia? Insomma, le discussioni stanno andando avanti, io spero che ci sia un finale positivo a questa vicenda, credo che convenga a tutti trovare una soluzione. La disturba il fatto che la Cina abbia creato questa banca, e quanto la disturba il fatto che il Congresso continua a non passare i fondi per le istituzioni multilaterali, il Fondo Monetario in particolare? Ma dunque, io non credo di per sé la creazione di questa banca sia un problema. Ma il Fondo Monetario anche in passato ha dimostrato la capacità di poter cooperare con altre istituzioni multilaterali. È però purtroppo vero che questo ritardo da parte del Congresso americano nell'approvare la riforma del 2010, quindi stiamo parlando di 5 anni di ritardo, la riforma delle quote e quindi dei finanziamenti, delle risorse che ha il Fondo Monetario, è una cosa piuttosto spiacevole, è una cosa che non dipende dall'amministrazione americana, dal governo governo americano dipende dal congresso. Le discussioni però stanno continuando, quindi noi continuiamo a sperare che la situazione si sblocchi. Scusi, una cosa provocatoria però che riguarda noi sul discorso dello sviluppo, perché al di là appunto dello sbloccare la questione multilaterale, ormai la banca per lo sviluppo cinese è partita. Noi avevamo uno strumento importante, quello della cooperazione, uno strumento che di fatto si è quasi azzerato. Lei non crede, lei si è occupato tra l'altro di queste cose in Italia, che forse sul piano strategico ci sono delle voci che è meglio non toccare? Ma dunque, qui mi devo rimettere il cappello che avevo precedentemente del commissario per la revisione della spesa. La spesa per cooperazione è importante, però io ho sempre sottolineato da commissario e continuo a sottolinearlo adesso che quando si parla di possibili vantaggi che derivano da un certo tipo di spesa, bisogna farlo confrontandolo con qualcos'altro, cioè confrontandolo con quello che io potrei fare con quei soldi. Anche la spesa per la pubblica istruzione è importante la spesa per la sanità, è importante ugualmente poter ridurre la tassazione, quindi dare un giudizio su un tipo di spesa soltanto per quanto importante, diciamo, non è quello che io farei utilizzando quello che ho imparato facendo il commissario della revisione della spesa. Il problema della disuguaglianza è un problema che crea malumore nella classe media, diminuisce i consumi, si trasforma e si traduce in un problema economico, come problemi economici strutturali indicati tra l'altro al Fondo Monetario Internazionale sono quelli dell'invecchiamento della popolazione, di una caduta della produttività e appunto della deflazione. Tre sfide strutturali di cui il G7 dovrebbe occuparsi. Ecco, che consiglio dà lei a questo G7 su questi tre fronti, o come vedrebbe una soluzione a questi tre problemi strutturali dell'economia? Ma che ci sia stato un peggioramento della distribuzione del reddito negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati e anche non è indubbio. Che questo sia un problema compreso per la crescita credo sia pure vero, ci sono lavori del Fondo Monetario che fanno vedere che con maggiore disuguaglianza si tende a crescere di meno perché si creano dei contrasti sociali. La questione è che cosa si può fare. Io credo che la struttura della tassazione e anche della spesa pubblica possa essere cambiata per cercare di correggere questa maggiore disuguaglianza. Fra l'altro la politica fiscale, per esempio negli Stati Uniti nel corso degli ultimi 30 anni, ha contribuito a rendere più negativa questa tendenza a una peggiore distribuzione del reddito, cioè le tendenze del mercato non sono state accentuate dalla politica fiscale, dalla politica della tassazione americana, quindi si può pensare che qualche correttivo al modo con cui viene applicata la tassazione possa servire, una tassazione un po' più progressiva potrebbe servire da questo punto di vista a correggere questo peggioramento della distribuzione del reddito. Quindi è una responsabilità della politica fiscale e non credo sia una responsabilità della politica monetaria correggere questa situazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me ancora Carlo Cottarelli ai microfoni di America 24. Cottarelli, perché non ce la sceglie lei la canzone? Scelga lei una canzone americana che ci dia carica. Beh, visto che l'economia americana e mondiale deve ricominciare a correre, direi Born to Run di Springsteen. Born to Run, Bruce Springsteen. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!